tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario anticlericale. Ricordiamo il nostro sito www.giordanobrunomi.wordpress.com. Per informazioni sul calendario anticlericale 2022, info@sicilialibertaria.it. Si avvicina la scadenza nel mese di maggio del 50° dell'assassinio poliziesco democristiano del compagno Serantini, avvenuto a Pisa. Fu massacrato di botte dalla polizia e lasciato morire in carcere. Estorsione sessuale al prete, assoluzione dalla prealpina del Varesotto del 1° aprile. Non fu estorsione quella che Don Mauro Carnelli subì durante il suo incarico di cappellano dell'ospedale di Saronno Varese. Nel tardo pomeriggio di ieri, collegio presieduto dal giudice eccetera eccetera, accusato di aver comprato il silenzio del sacerdote sulla loro relazione sessuale, insomma il solito tristissimo caso di clandestinità erotica clericale. 5 feti in casa dell'attivista antiaborto, ipocrisia dei filoclericali, scoperta macabra a Washington negli Stati Uniti. Il quotidiano nazionale, 1° aprile, pagina 18. Scoperta shock a Washington, dove 5 feti sono stati trovati in casa di un attivista antiaborto, leader del gruppo antiaborto. Abbiamo poi investimenti a Londra. Il Papa era contento. Monsignor Mauro Carlino, monsignore del Vaticano, cerca di coinvolgere Papa Francesco in questo folle, losco investimento dei soldi che la Chiesa preleva dalle tasche dei suoi credenti, facendo credere appunto che fossero per usi di culto, eccetera, invece sono finiti in speculazioni finanziarie con un broker pluripregiudicato. Il Vaticano investa nei paesi poveri se ha dei soldi d'avanzo, non certo nella ricchissima Londra. Da Fatto Quotidiano del 31 marzo, pagina 12. L'inferno monacale. Ad Abano Terme, in provincia di Padova, lo studioso Ruggero Soffiato ha fatto un'ottima relazione su questo libro, in cui si parla proprio della pirateria del Papa, dei roghi di libri e di tutti i misfatti clericali contro queste povere ragazze obbligate ad andare in convento. E questo libro è giunto a noi in versione manoscritta. Gli ottimi compagni di Rete L'Abuso mi hanno mandato una mail il 1° aprile 2022. Canada, Papa Francesco e nativi, dolore e vergogna per ciò che hanno fatto i cattolici. Provo vergogna, dice Papa Francesco, dolore e vergogna per il ruolo che diversi cattolici, in particolare con responsabilità educative, hanno avuto in tutto quello che vi ha ferito, parla appunto ai nativi americani. E quindi, insomma, questa è una violazione del Vangelo, eccetera, eccetera. Dalla rivista gratuita La Freccia, che danno gratis sui treni, si parla del paesino di Triora, gioiello dell'entroterra ligure, che alla fine del 500 fu sede di uno dei più famosi processi per stregoneria. Sia gli inquisitori, sia i giudici laici torturarono e incarcerarono ben 19 donne e 6 morirono prima di essere assolte. I mostruosi crimini della Chiesa contro la donna. Sul supplemento Tutto Libri della Stampa di Torino di questa settimana segnalo l'articolo su Giuliano l'Apostata. Fu un famoso anticattolico per cui i cattolici tentarono più volte di assassinarlo e alla fine ci riuscirono. Dalla mensile Sicilia Libertaria al di qua, tra giornalisti, camerieri e abusi da occultare. Possiamo leggere l'evento, tale solo per la TV pubblica, della telefonata di Bergoglio a Che Tempo Che Fa. Possiamo leggere l'evento, tale solo per la TV pubblica, asservita al clericalismo? All'estero non è stato preso in considerazione quasi da nessuno. come l'ennesima affermazione di prepotenza clericale nella società italiana attraverso uno dei media più importanti, di pari passo con la dilagante presenza papalina su tutti i canali televisivi. Un teatrino penoso, ma anche vergognoso, all'insegna dell'eterno patriarcato clericale, sottolineato dalla presenza da remoto del Santo Padre. In conclusione, mi piace ricordare l'imbarazzante mole di giustificazioni adotte dal Papa emerito Ratzinger in risposta alle accuse di pedofilia rivolte anche nei suoi confronti dagli estensori del rapporto Monaco, di cui mi sono occupato sul numero scorso di Sicilia Libertaria. Imbarazzanti appunto e scontate, ovvie e ridicole, non potendo ammettere che come massimo responsabile della diocesi di Monaco e Frisinga era a conoscenza delle porcherie che facevano centinaia di preti. Dal mio calendario anticlericale 2022, per concludere, domenica 3 aprile 2020, multato parroco di Rocca Imperiale, Cosenza, usciva in processione, infischiandosene del Covid-19. 4 aprile 2017, la regione Lombardia, governata dai clerico-fascisti, non rimborsa l'eterologa ad una coppia sterile, persecuzione clericale. 5 aprile 2019, l'ex parroco Don Bellelli di Modena, spretato dal Vaticano, ignoti motivi. 6 aprile 1529, l'Inquisizione spagnola arresta un frate di Toledo per aver osato criticare l'arresto di una presunta mistica locale. 7 aprile 2018, 18enne molestato in confessionale, sesso sul divanetto della sacrestia, arrestato Don Michele Barone a Caserta. 8 aprile 2020, supermulta a Perugia per messa abusiva con troppi fedeli in corso di epidemia. 9 aprile 1850, abolito il foro ecclesiastico nel regno di Sardegna. I preti criminali saranno giudicati come gli altri cittadini. Infatti in precedenza, per secoli se non per millenni, tutti i preti che erano responsabili di fatti criminosi venivano giudicati dal vescovo oppure da, al massimo, come nella Repubblica di Venezia, da una giuria mista patriarcato, inquisizione e nobiltà laica. E quindi ovviamente molti preti se la cavavano, anche con pene irrisori. 10 aprile 1938, il cardinal di Vienne in Nizza fa pubblicamente il saluto nazista mentre vota il plebiscito voluto da Hitler, il clerico nazismo. Bene, saluti a tutti e arrivederci alla prossima puntata. Tutti